Come è nato il podcast Gli scimmioni non leggono Nietzsche? Un giorno, circa un anno fa, una persona a me molto cara che ha un podcast su Runtime Radio mi ha chiesto di prestare la mia voce alla lettura di un testo che aveva tradotto dall'inglese per il suo podcast. E Simone Pizzi, editando l'episodio, disse a questa persona che la mia voce in qualche modo funzionava in radio. E la cosa mi ha molto sorpresa, a causa della mia S, che un insegnante di recitazione 10 vite fa aveva bollato come sibilante e aveva cercato senza successo di farla sparire, facendomi ripetere fino alla nausea: sassi e sassaiuole costruiscono cascate. In realtà non avevo mai pensato all'idea di un podcast mio, perché sono una che nella vita, essendo molto curiosa, si è sempre interessata di mille cose, quindi ho diverse, chiamiamole, abilità, ma non eccello di sicuro in niente. Però la tentazione era grande, allora mi sono chiesta: ma c'è qualcosa che so fare bene? Ecco, credo di essere brava a creare delle connessioni, connessioni in generale, ma nello specifico connessioni fra i libri che ho letto. Così ci tengo a ribadirlo, grazie a Simone Pizzi che mi ha dato l'opportunità di creare un mio podcast, è nata l'idea degli scimmioni non leggono Nietzsche, che è un podcast sui libri, ma non faccio recensioni di libri. A volte mi piace trattare un tema e poi vedere come questo tema, che può essere il senso di colpa, ma anche le isole o il gatto o la pancia, viene sviluppato da autori diversi. Oppure semplicemente con la tecnica delle libere associazioni, un po' come il bersaglio della settimana enigmistica: parto da un autore, un titolo, un tema e ci costruisco sopra una serie di concatenazioni, di associazioni, di ponti. Il tutto con un'intenzione di fondo semiseria e soprattutto con la consapevolezza che i libri sono guide nella vita, sono medicine per l'anima. Ecco, Platone davvero è meglio del Prozac, come recita il titolo di un manuale di counseling filosofico di Lumarinov, ed è pure sacrosanto, come ha detto bene Daniel Pennac, che un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso.